Grecia ed euro al centro del vertice europeo di Bruxelles. Giustizia, il monito di Napolitano, intollerabile scontro fra politica e toghe. Milano in cella Prosperini, ancora accusato di tangenti. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco e dalla redazione. In primo piano l'allarme di Confindustria sull'economia italiana. Piattume quasi totale. La crescita nel terzo trimestre sarà praticamente nulla, dice il centro studi di Confindustria. Dopo la temporanea accelerazione registrata nella prima parte dell'anno, si torna dunque a un PIL vicino allo zero. Tre i motivi che contribuiscono, dicono le stime flash dell'associazione. Export, mercato del lavoro, domanda interna. Ma andiamo per ordine. A maggio le esportazioni rimangono ferme, più 0,1% su aprile. E nonostante il buon andamento della prima parte del 2011, l'export resta comunque del 4% sotto il picco pre-crisi. Mercato del lavoro debole, dice ancora il centro studi. A maggio disoccupazione all'8,1%, che diventa del 28,9% tra i giovani sotto i 25 anni. Infine la domanda interna. I consumi italiani ristagnano, non ci sono troppi soldi da spendere e infatti si spende di meno. Si risente in modo particolare delle difficoltà occupazionali e dell'aumento dei prezzi. Paola Rania, Radio 24, il Sole 24 Ore. E Confcommercio rivede al ribasso le stime del PIL per il prossimo triennio. Nel 2011 il PIL italiano si attesterà allo 0,8% dall'1% previsto in precedenza. Nel 2012 sarà all'1% dall'1,2% e nel 2013 sarà all'1,1% dall'1,3%. C'è grande attesa per il vertice dei 17 leader dell'Eurozona a Bruxelles. Angela Merkel e Nicolas Sarkozy hanno trovato un accordo sulla crisi della Grecia durante la notte. Sergio Nava ha intervistato il vicepresidente della Commissione, Antonio Tajani. I mercati, le banche si aspettano una risposta politica, non una soluzione tecnica. La soluzione tecnica è figlia della risposta politica. Insomma, deve essere fatto quello che abbiamo fatto il 9 maggio, quando l'Europa ha detto in maniera molto chiara, con un intervento forte e politicamente incisivo, l'euro deve essere salvato, dobbiamo risolvere il problema della Grecia. Sentiamo invece ora come stanno andando le borse, Deborah Rosciani. Le borse sono negative, sono partite bene, questa mattina poi hanno azzerato i loro guadagni, sono arrivate a perdere oltre un punto, adesso invece si risollevano ma rimangono tutte con il segno meno. Londra meno 0,7%, Parigi e Francoforte, quando abbiamo iniziato salvadanaio un'ora fa, perdevano lo 0,8%, adesso hanno ridotto la perdita a meno 0,19%, meno 0,21%, Milano meno 0,40%. Sul FTSE MIB la pressione si fa sentire un po' di più sull'euro che sul dollaro, quota 1,4170. Stamattina era arrivato a 1,43 sulla scia dell'ottimismo per l'esito del vertice dell'accordo appunto della notte fra Sarkozy e Angela Merkel. Stanno ritornando a scendere tutti i titoli del settore bancario. Non c'è molta attenzione sul versante obbligazionario perché lo spread fra il BTP e il Bund, fra il titolo decennale italiano e quello tedesco, quota intorno ai 279 punti base, per cui ben lontano dal record appunto di 337 punti registrato lunedì scorso. Ma in ogni caso il mercato è prudente e guardingo in attesa del vertice di Bruxelles. Grazie Deborah Rosciani. Ed è notizia di poco fa che i benzinai hanno sospeso lo sciopero previsto per la settimana prossima, il 26 e il 27 luglio. La decisione, comunica il coordinamento nazionale di FAIB Confesercenti e FEGIC CISL, è stata presa rispondendo positivamente all'invito pressante della Commissione di Garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi e per dare il giusto riconoscimento e maggior forza al tentativo di conciliazione della vertenza con il governo annunciato nelle scorse ore dalla Commissione stessa. Veniamo ora alla politica italiana. Missione all'estero e giustizia scuotono la maggioranza nel giorno in cui il capo dello Stato Napolitano giudica intollerabile lo scontro fra politica e magistrati. Ce ne parla in diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Sì, lo scontro di ieri a Montecitorio all'interno della maggioranza sul caso Papa potrebbe rinnovarsi martedì prossimo, quando la Camera voterà per il rifinanziamento della missione in Libia. La Lega valuta positivamente il decreto per la riduzione delle missioni, ma Roberto Castelli ha già annunciato che voterà no per scelta personale ed è disposto a dimettersi da viceministro. Sulla giustizia invece arriva il monito del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che giudica intollerabile lo scontro tra politica e toghe. Per il capo dello Stato i magistrati non devono cedere a disposizioni mediatiche e devono utilizzare le intercettazioni solo quando sono assolutamente indispensabili. Parole che rimbalzano a Montecitorio all'indomani del voto sull'arresto di Papa. Il PDL accusa l'opposizione di aver violato il voto segreto, ma smentisce una crisi all'interno della maggioranza. Il ministro della giustizia Angelino Alfano dice di non capire lo scalpore per il voto della Lega, che era già nota. Ipotesi ribadita dal capogruppo PDL alla Camera Fabrizio Cicchitto. Sentiamo. Dal punto di vista politico è evidente che deve esserci un chiarimento politico tra noi e la Lega. La Lega, diversamente dal PD e dall'UDC, ha dato libertà di coscienza e questo è un fatto molto positivo. Da parte della Lega si ribadisce che l'orientamento al voto era già stato espresso da Umberto Bossi e si negano divergenze tra il senatore e il ministro degli interni Roberto Maroni, che ieri in aula alla Camera ha manifestato il suo sì all'arresto mentre votava. Sentiamo il capogruppo Marco Reguzzoni. Bossi lo ha detto da tempo, questa era la posizione della Lega, abbiamo anche lasciato libertà di coscienza, perché se decidere di arrestare una persona senza un processo o no doveva essere una decisione di coscienza e i nostri parlamentari si sono comportati come ritenevano, seguendo peraltro in gran parte le indicazioni di Bossi. Ma io non credo che sia stato un errore politico, noi abbiamo dato un'indicazione precisa in coerenza e in linea con la nostra storia. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie Elisabetta Fiorito, invece noi diamo la parola adesso a Vincenzo Miglietta perché ci parla del PD che è alle prese con i casi Penati e Tedesco. Vincenzo. Sì, è così, il Partito Democratico rivendica la coerenza e la compattezza dei numeri dimostrati tra Camera e Senato. Noi siamo stati sulla linea giusta, spiega Versani, ossia i deputati sono uguali agli altri cittadini, mentre per il Popolo della Libertà non è così. La capogruppo a Palazzo Madama, Anna Finocchiaro, attacca invece la Lega e dice il Carroccio ha annunciato il voto a favore dell'arresto di Tedesco e poi ha votato contro. In questo modo, aggiunge la Finocchiaro, i leghisti hanno voluto colpire il Partito Democratico, ma anche mostrare a Berlusconi che hanno il bastone del comando. Quanto all'opportunità che Tedesco si dimetta, francamente è una sua decisione personale, spiega la senatrice. Sul caso Penati intanto il principale partito di opposizione si dice sicuro che l'attuale vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia saprà dimostrare la propria estraneità ai fatti che gli vengono contestati, lo ribadisce Cornelli, segretario provinciale di Milano del PD, sulla stessa linea ma più cauto lo stesso Bersani, che spiega la magistratura faccia il suo mestiere per accertare questa vicenda. Credo che alla fine, aggiunge il leader del Partito Democratico, sarà in condizione di verificare che sono cose senza fondamento. E da Roma è tutto, in studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. E sulle indagini che coinvolgono Filippo Penati, Giacomo Segantini ha intervistato il segretario regionale lombardo del PD, Maurizio Martina. La prima nostra reazione di ieri è stata molto chiara, fiducia nell'attività della magistratura e ovviamente fiducia nella possibilità che Penati ne esca ovviamente bene, chiarendo tutto e quindi riconoscendo la sua estraneità a tutti questi fatti. Valuteremo tutto anche nelle prossime ore, non abbiamo proprio nessuna intenzione di non valutare anche elementi come questi, per cui vedremo anche con lui i passi necessari da fare. Si può parlare di questione morale all'interno del Partito Democratico Lombardo? No, sinceramente io non credo, i fatti risalgono a molto tempo fa e abbiamo sempre avuto questo atteggiamento nei confronti di tutte le vicende giudiziarie che riguardavano il mondo della politica. Pieno rispetto nel lavoro dei magistrati, quindi la giustizia faccia il suo mestiere fino in fondo. Naturalmente questa vicenda ci tocca da vicino, noi ci auguriamo che ovviamente tutto si chiarisca presto, ovviamente anche nell'interesse di Filippo Penati. L'ex assessore regionale della Lombardia al turismo e allo sport, Pier Gianni Prosperini, è finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione e false fatturazioni in relazione a tangenti ricevute per favorire un imprenditore in una gara d'appalto per la promozione di eventi in Valtellina. L'onda lunga dello scandalo intercettazioni arriva in Australia, il paese da cui nel 69 Rupert Murdoch partì con la sua scalata, acquistando a Londra il News of the World, ora al centro dello scandalo. Fiducia a Rupert Murdoch, che con il figlio ha risposto con integrità e coscienza alla commissione. Dopo i giorni della vergogna, il principe saudita Walid Al Saud, azionista di News Corp con il 7%, a spendersi in favore del grande editore da cui ora in molti prendono le distanze. Intanto i problemi non sono finiti, le indagini continuano, la commissione costituita dal premier britannico Cameron per far luce sull'intricata vicenda si mette al lavoro. Altri attacchi arrivano dalla patria d'origine, gli australiani potranno infatti conquistare il diritto di intentare causa per violazioni della vita privata dopo che il governo laburista di Julia Gillard ha deciso di intervenire proprio in seguito allo scandalo intercettazioni telefoniche in Gran Bretagna. Murdoch, che dall'85 ha cittadinanza americana, controlla il 70% del mercato della stampa locale australiana e dovrà probabilmente rispondere ad altre domande molto difficili. Il presidente di News Limited, John Hartigan, ha però respinto i commenti della Gillard come ingiustificati e deplorevoli, dicendosi pronto comunque a rispondere a qualsiasi domanda. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono stati fermati all'alba i genitori del bambino di 2 mesi scomparso da 1 mese a Folignano in provincia di Ascoli. Secondo la madre è morto in un incidente domestico, ma i carabinieri non danno per scontata la morte del bambino. La coppia ha anche altri 2 figli di 3 e 5 anni già affidati ad altre famiglie. Paola Nania ha intervistato l'avvocato della coppia, Francesco Ciabattoni. Come mai erano stati sottratti alla coppia gli altri 2 figli? Ma erano altre vicende, cose che erano accadute. Anche qui è stato spiegato tutto, perché da riscontrare che una responsabilità su questi episodi. Perché se è stata accertata la non responsabilità non sono tornati con i genitori? Sulla base di, diciamo, di una valutazione che erano troppo giovani, che forse era più opportuno trovare quest'altra soluzione di qua, e non fatto in questo modo. Stando alla versione della madre, la donna ha seppellito il bimbo senza avvertire nessuno. Come mai? Forse per paura, per timore. Immagino che sia solo per questo. Una donna di 41 anni di Crema, provincia di Cremona, si è uccisa con il gas insieme alla figlia di 2 anni. È stato il padre di Claudia Ornesi, questo è il nome della donna, a scoprire questa mattina i 2 corpi senza vita. Allarmato perché nessuno rispondeva al telefono, l'uomo si è recato a casa ed è entrato, scoprendo così i 2 cadaveri. Cambiamo decisamente argomento. Buone notizie per gli automobilisti in vista delle vacanze estive. L'ANAS ha annunciato l'apertura al traffico di un nuovo tratto di 6 km della A3 Salerno-Reggio Calabria fra Contursi e Frisignano. Un'opera di oltre 200 milioni di euro. Il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci. Con oggi e con le aperture al traffico che sono programmate per la prossima settimana, noi avremo tutto il tratto campano da Salerno fino a Buonabitacolo e a Lago Negro, quindi oltre 120 chilometri, tutti percorribili, tutti della nuova Salerno-Reggio Calabria. Complessivamente su tutto il percorso saranno 240 chilometri nuovi su un totale di 440, perché dobbiamo sempre ricordare che la Salerno-Reggio Calabria è una autostrada lunga poco meno della Roma-Milano e oltre 440 chilometri appunto di autostrada. Come si presenterà il tratto autostradale all'appuntamento con le vacanze di agosto? Decisamente migliorato rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni passati. Tutto il tratto campano è un'autostrada nuova, 3 corsie o a 2 corsie, più corsie d'emergenza, con gli impianti più moderni, la pavimentazione drenante, quindi una strada assolutamente sicura, così come nel complesso di tutto l'itinerario oltre 240 chilometri. Ed è tutto per questa edizione, curata da Daniele Biacchessi, condotta da Alessandra Tedesco, in regia Paolo Corleoni, e ci risentiamo con il prossimo GR alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.